Cosa c'hai? Una ciabatta c'hai? Purtroppo sì. No, purtroppo devi cercare di mettere l'alimentatore diretto e provare, perché molto probabilmente la ciabatta. Quasi mi è gasino, diventa tutto un occhio. Molto probabilmente questi difetti li fanno queste ciabatte ai cinesi. Capito? Quindi sappilo, fatti una prolunga, cercati una presa diretta ad attaccare l'alimentatore e rifai la prova. O se c'hai qualche neon lì attaccato, qualche lampada, qualcosa. Quello è un rumore di alternata della 220, non è un rumore di alternata di alimentatore. Qua ho staccato la lampada. La lampada non è, se l'hai staccata. È la ciabatta, vai tranquillo che la ciabatta. Scappa. Dai, ci sentiamo ragazzi, che io sto facendo cosa, già sono in ascolto, ciao anche a Marco, vai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Che affogato. Porca puttana, cazzo. Hai sentito Anto, quanto è forte? Adesso provo a metterlo diversamente. Aspettatemi un attimo. È un rumore della 220 Marco quello, non è né alimentatore né baracchino, perché a casa di Antonello stavo uscendo benissimo. Io ho avuto problemi di altri ricordi con l'alimentatore, quello grande nero, e tanto ci muovevo attraverso la lucina, facevo capire dove diavolo era. Poi un giorno mi sono indicato l'alimentatore acceso, tutta da lì, mi entro a casa, schiaccio il portante, cazzo, comincia a vibrare la carrozzeria, giusto? Ah, adesso ho capito cos'era. Sentate, il caffetto non faceva nulla. Quando mi cominciava a scaldare i punti di Rivoli, scaricava completamente a massa nella carrozzeria. E quindi diciamo l'alternata di questa vibrazione. Più le cose. Adesso ho cambiato l'alimentatore, ci ho messo lo squicci, vabbè, si sentirà la ventola, però almeno l'alternata non lo sento. Guarda a vedere adesso, lo sta facendo? Molto meno. Sto coglione girato tutto. Ehi, ma non te devi far girare, devi trovare il problema, perché quello è un problema che devi risolvere, sennò stai uscendo malissimo. Capito? È un problema che devi risolvere, è un problema della 220 quello. Prova di mettere la ciabatta, fatti una prolunga, attacca l'alimentatore diretto e prova. Aspetta. Addirittura la ciabatta lo può provocare, ma la ciabatta non ha componenti elettronici, no? C'ha solo un interruttore, Claudio, o c'ha anche roba in mezzo, tipo protezioni, roba lunga. Ah, ma aspetta, c'è tutta punteggiata, è tutta vatta, no, gaggata. Lo può fare. Non sono schermate, usano dei cavi del cacchio. Lo può fare. Se no c'è qualche rientro, da qualche presa, da qualcosa. Quello è un rumore, un'alternata della 220. Non è dell'alimentatore. È un bel forte per essere dell'alimentatore a 12. Sì, infatti Emilia l'ho fatta sentire tramite un audio, fortissima. Vabbè, dai, bianco per me. Prova adesso. Molto meno, sempre molto meno. Cosa cazzo va? Non lo so, devi andare a escursione, piano piano, con calma, sposta il baracchino, mettilo più lontano dall'alimentatore, devi fare un sacco di prove, perché è lì vicino a te. Se no stacchi quello lineare e attacci i cavetti a posto di quello del lineare e vedi se il baracchino accende. No, già fatto, l'ho già scoperto che cos'hai, Antonello. Già fatto? Sì, già fatto. Ah, meglio così, allora, che da, non c'è problema. Prova a mettere la mano sopra il baracchino quando stai parlando. Hola? Hola, vedi? Com'è? Quanta scarica sei? Si abbassa, metti la mano nel connettore del microfono. Hola. Più. È un problema di rientro di RF da qualcosa. Quando tu metti la mano nel pomello del connettore del microfono lo fa. Tanto tocca a cura pompone, guarda se scarica. La marta te ne vai. Ma dove sei Anto? A casa mia sono, perché? Ma se c'è qualcosa che non va, cioè non c'è un buon piano di massa, amico, perché sta facendo così. C'è qualcosa che non va, cioè. Però se mantieni come ti ho detto io non lo fa, vedi che non lo fa. è un rientro di RF dalla, come schiacci il PTT, quindi è un problema lì vicino a te. Va bene, vai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao, adesso vedo un po' cosa cazzo è. Falle un cavettino, Anto, dal pomellone, dal connettore del microfono alla massa del baracchino, la cassa del baracchino, questo te lo fa, con un pezzettino di filo, prova. E così lo fate? Di meno, ma lo fa, poco fa invece non lo stava facendo per niente, quando hai toccato il pomello, il connettore del microfono. Allora, qualcosa di massa, aspetta un attimo, invento qualcosa. Inventa, dai, già c'è Antonello e Luca, io devo uscire, ciao. Ehi, ciao, bra. Guardate che come facevo io, un filo dietro il PL, da lì, in qualche cosa se c'è qualche cosa in ferro, metti un chiodo nel muro, non so quello che è, lo agganci e scarica lì. Ciao Claudio, a dopo. Ciao Marco, ciao. Ehi, ma il BIP, cosa c'è, un 3009 anche lui adesso? No, sta usando la 87. Alan 87, aspetta, ma per caso grigio è? Grigio, non c'ha i tasti larghi, c'ha i tasti stretti, infatti dall'ultimo momento, c'ha i tasti, i pulsantini come 3009. E indovina dentro cosa c'è? Dentro c'è la scheda del 3009, praticamente è un 3009. EPT 3006 mi pare, fammi fare mente locale, 15, 14 B di Bari dovrebbe essere, o dintorni, comunque, sì, è praticamente un 3009. E c'è anche il pulsantino del letto, vabbè, ci sono i due usciti di letto. Solo che conoscere, non si può agganciare, bisogna comprare la scheda, agganciare i cavetti, eccetera, eccetera, e ti mettere l'eco tipo con le 4.000, capito? Ehi, beh, certo, l'eco è una cosa indispensabile, ci mancherebbe. Io l'eco non, va bene, non lo sto usando, uso più alto in quel baracchino che ho comprato nel Polmac. L'unico microfono che va bene è quello con l'eco, che mi aveva dato Antonio quando ho comprato il Saturn Echo io, capito? Avevo sistemato il microfono e quel microfono lì, meno male, l'ho agganciato a quel forma. L'unico che va bene, ci puoi mettere un M300 in forma che esce bene, oppure l'altro che c'ha l'eco, DM1000. Ehi, a chi altri c'era? Già, quindi Antonio, Claudio, Luca c'è ancora? Ah, c'è qualcosa che non va qua però. Ma sta piovendo per caso? Non lo so, che non lo so. Mi sembra di sì, però non lo so. Beh, adesso è già un mese che sta piovendo, figurati le antenne come sono. Aspetta. No, ho sbagliato io, dai, non c'è nulla. Vabbè, adesso tutti i giorni, siamo quasi più di un mese, più che tutti i giorni. Sono sicuro adesso quest'estate me ne scendo le radiali come le mosche me ne scendo. Perché ci sarà soltanto il basamento di sotto della tubo e sarà marcio. E tutti i giorni acqua, più giorni acqua, come mettere la mantovatura e mezzo c'era dentro un secchio. No, mi è venuto il dubbio. Comunque le stazionali le controllo dopo. Stanotte verso le 5 di mattina è venuto questo ventaccio. Sentivo sbattere roba fuori. Sarà caduto anche qualche vaso di fiori da qualche parte. Un ventaccio. Però stamattina poi ha smesso. Cioè di giorno non c'era il vento delle 5. Lo so, ho dovuto chiudere, cioè, controllare che fossero chiuse le finestre e tutto. Deve essere qualche strascico di quella piccola tempesta che è passata in Spagna. Lo sai, c'era la neve in Spagna. Questa l'ho vista. Sarebbe stato fare in Italia. Vabbè, c'è il lockdown. Siamo scesi in casa a giocare a palle di rebre, quando sarebbero venuti saliti i poliziotti qualcosa, con gli shit, avevo detto cosa vuole, noi stiamo giocando sotto casa. Hola, guarda se va bene così. Ce l'hai ancora. E vaffanculo. Che strano, ma di punto in bianco te l'ha fatto Anto. No, no, no, lo sto provando adesso. Guarda, vai a toccare. Pochettino, com'è? C'è ancora. Metti la mano dove c'è lo spinotto del microfono. Guarda a vedere, com'è? Di meno. Vero, diminuito molto. Cazzo, ma già due guglioni. Quindi è un problema di massa? Chi è che l'aveva detto? Cosa? Claudio l'ha detto, problema di massa. Vabbè, comunque tanto fa una cosa. Come anche attaccati l'MPP4, che è una cazzata agganciata. Tanto sono solo 4 corsi. C'è poco da sbagliare delle posizioni. Sì, se avessi un microfono alternativo potrebbe verificare se il microfono o l'apparecchio. Quello cos'è, quattro poli, sicuramente c'ha la stessa piedinatura di questo. Buonasera. Buonasera. Ciao Marco. Aspetta, mi ricordo come lo dice Chicco d'Oliva, non so se è presente quel comico. Buonasera. A voi, che pesce è? Sì, un comico di quelli moderni, giovani, così, dai. Che parla un po' il falsetto, mi. Vabbè, non ti sei perso niente. Ciao già. C'è Antonio con le prese con una massa che non sta andando. C'aveva un'alternata terrificante prima. Adesso è forse diminuita appena. Ho sentito. Beh, Charlie, non può affettare. Ciao Alessio, buonasera. Sì, qua l'alternata è terrificante. Se lascia portare muta, guai. Dai, riprendete un attimo che spengo il pesce, che c'ho, mi fuma il pesce sul fornello. Sul fornello? Quella, una battuta di Pippo Franco era in un film, mi fuma il pesce, quando era travestito da donna per fare la golf, no? La collaboratrice domestica. Pesce paludo. Antonio è sempre smanettando, ragazzi. Oh, sta smanettando, che altro è? Ma che cazzata? Adesso esce di testa. Tu domani mattina è stato un po' problema. Comunque Gianni, sono fuori peso forma di 10 kg. Credo di essere al quinto mese, forse anche al sesto. Capita. Che cosa stai... vita troppo sedentaria, troppo sedentaria. Poi in questo periodo, sai, ci invogliano a uscire. Fa bene anche alla psiche stare a casa, capito? In senso, ho detto, in senso negativo naturalmente. Lo dico per Pomponio, più che altro. Sì, io già esco, già ho messo la tua casa. No, era a livello di comprensione di battuta. Fuori Gianni già l'ha capito. Sì, confermo anch'io il vento di stamattina presto, stamattina, dai. Comunque, anche qua lo stesso, sentivo rumoracci strani. Lì già ti ripeti tu, ti ha saldonato. Almeno ti tirano i fiori ti tirano dal sopra. Stai in piedi come è diventata, per carità. Li avete tutti arrestati, padroni di quelle case. Beh, io già sono fuori le mura, quindi, di poco, ma già sono fuori le mura. Sì, poi vabbè, il vento è calato, me ne sono accorto dalle palme, sono le palme grandi alla stazione. Cazzo, quando tira vento forte li vedi, cazzo, da una bacca all'altra. Secoli fa sarebbe stato un problema vivere fuori delle mura di Sassari, e rimano tutelato, più soggetto a brigantaggio, sai, tutte quelle cose, invasioni. In compenso, chi era dentro le mura, diciamo che stava relativamente più sicuro, in compenso era esposto al brigantaggio dell'epoca feudale, capito? Dei potenti. Mamma mia, oh yeah, ragazzi. Volevo dire un'altra cosa, ma adesso mi è passato di mente. Vabbè, dai, riprendi Ale. Ehi, Marco, mi ho preso un coso l'altro giorno, l'ho fatto arrivare quel binocolo, anti-monoculare si chiama, quello che si aggancia al telefonino, cazzo poco, e poco si vede bene, vedi avvicinato quando si fa la roccia, si fa. Sì, è un piccolo teleobiettivino che si aggancia così alla belle meglio alla, davanti all'obiettivo, alla, all'obiettivo della fotocamera e ti fa un po' da zoom fisso. Eia, eia, c'è anche il grandangolare. 50 dopo l'ho pagato più, se è stata in tutto la spedizione, mi è arrivato in 3 giorni. Adesso che ho volato da Wish, lo stesso coso costa 11 euro. Ma io su Wish non ci ho mai comprato una, anche perché mi hanno detto che tu ordini e non ti arriva un accidente. Dipende, di solito arriva. Sì, guarda che molte cose che vendono su Amazon, tipo cavetteria, adattatori, schedine audio marcate, che so. Aspetta, com'era quella marca? Green Power, non mi viene il nome. Le trovi su AliExpress alla metà della del prezzo. Purtroppo è così. Dipende se vuoi aspettare un mese, anche due, che ti arrivi, oppure se lo vuoi subito lo ordini da Amazon, però lo paghi molto di più. Scusa un attimino. Ale, ma perché fa questo difetto? Non lo so, a casa non me lo faceva quel difetto, è strano. Non lo so, come si sta. Ma come si sta anche l'altro giorno? Come le guarda, cambia il microfono, non voglio anche ti metti di più quanto fai prima, così ti togli il dubbio. Non serve che magari sia quel microfono del sé che faccia quel problema. No, qua lo sta facendo un altro difetto, Antonio. Praticamente quando va ad attaccare il lineare si spegne il baracchino. Non è possibile si spegne il baracchino, cazzo, ho attaccato il lineare qua quando eri a casa. Va il strano, cazzo, che si spegne il baracchino. Cazzo, ti giuro, va. Come va a pensarci il PL, cazzo, si spengono i numeri del baracchino. Dattore! Aspetta, ciao Giulio. Ciao Marco, ciao a tutti. Controlla l'alimentatore che non ce la fa. Ma come non ce la fa? Ma prendi se è mugosa. È quello no, quando non è quello. Quando io voglio inserire il PL si spengono i numeri del baracchino. Una giostra con l'apparecchio, guarda Giulio. Ehi Dan, dimmi Marco. Avete parlato 53, avete parlato. Boh, a me non me l'ha fatto con quello valvolare che già l'hai visto, se non c'è rispetto qua. È strana la cosa, molto molto strana, a me non me l'ha mai fatto con l'effetto lì, quel baracchino. Cosa cazzo vuoi che ti dico? Adesso provo a attaccare l'amplificatore a vedere se fa ancora alternata, provo a far andare lui da solo. No Giulio, ci abbiamo parlato in due, dicevo che è una giostra quel baracchino, è tipo quell'impianto elettrico delle Fiat Uno, che mettevi le frecce e ti si accendeva lo stop, l'anabagliante, la luce di retromarcia. Ciao ciao, vado a mangiare, ciao. Ciao Giulio, ciao, buona cena. Buona cena a tutti. Se no tu passi domani qua a me, volta quella linea di tour, quella alimentata di switching e vabbè. Dove facciamo la prova qua, vediamo qual è il problema, non costa niente provare. Lo proviamo qui e lo sappiamo subito. Adesso stacco gli amplificatori, aspetto un attimo. O almeno uno o due. E vabbè, comunque c'è difficoltà per il MP4, lo sali qui. E te lo piatto qua, MP4, non è quello il problema. Però devi portare l'alimentatore tuo, così ti faccio l'abbinamento giusto, me. In modo che quando arrivi a casa tua lo fai altro che attaccare, sei tranquillo. Se poi c'è qualcos'altro magari e hai qualche problema sarà a casa tua, non lo so. Comunque porta tutto se ci sono problemi. Così ti faccio l'abbinamento e lo vediamo subito. Ora, tanto già c'è l'altro apparecchio e ci possiamo ascoltare. Non costa nulla. Mi aspetti 2 minuti che sta con l'amplificatore. Io sono qua. Sì, Gianni, c'è ancora? Beh, prendete un po' voi che mi mangio un po' di pesce. Ho gustato per la prima volta il coso, non l'avevo mai provato. Come si chiama quel pesce tipo squaletto, la verdesca? Ah, l'ho mai assaggiato il pesce. Che c'è un po' di quell'osso cartilagineo, ho capito, c'ha cartilagine, non è a spine. Ah, il sapore è buono, fatto in verde. Ma il gattuccio? No, verdesca. Proprio verdesca c'era scritto sulla confezione. Poi l'ha fatto mamma, sempre prezzemolo e aglio, insomma in verde l'ha fatto, dai. Bene, bene, da. E ricorda vagamente la razza come sapore, perché io prima avevo mangiato la razza anni fa. Il sapore potrebbe somigliare, tanto mi sono sempre della famiglia degli squali. Giù. Oia sì, Antone, oggi in 40 metri c'era una follia di segnali, una marea di propagazione, tutti facendo contest, tutto pieno, tutta la banda piena, uno attaccato all'altro. Ogni chilo verso una stazione c'era. E quindi, e poi bei segnali, Guarda a vedere adesso, ho staccato tutto. Porca di chissà troia! Avete parlato in due, Antonè. Parla adesso, Antonè. Adesso come passa? Ha passato la giornata, figurati. Avevo messo la faccia a Marco, cioè. Infatti che c'era quello zio. Domani fa la cosa, sali su con quell'alimentatore al tuo. E così vediamo se c'era per l'alimentatore. Non costa niente. Sali lo switching, sali anche l'altro, sali anche Baracchi. E facciamo le prove. Solo divertisciamo stanotte. No, aspetta Antonè, però con gli altri baracchini non lo fa, quindi non lo toccate l'alimentatore. L'alimentatore non lo tocco, lo voglio solo provare qua, perché lui ha uno squeezing e l'ha attaccato. In pratica il lineare lo accende, però il baracchino no. Invece siccome quel baracchino lì io ce l'avevo attaccato con quello squeezing incidente, già lo sai. Abbiamo collegato l'857 T con la 87 e si accendeva tranquillamente l'uno e l'altro. Poi l'ho provato con il lineare mio, quello stazione base. Qualche cosa ci deve essere di strano, perché sennò è impossibile. Se lui sale il coso, il baracchino con microfono, capito? Sale anche lo squinci, così glielo controllo con testa e vediamo se c'è qualche problema di cose, di qualche vite che magari l'ho fatto tanto bene, non lo so. Ma lo vediamo su, adesso sto facendo di testa, magari una cazzata. Mappa, io so cosa è una cosa che mi ha già girato il yo-yo. Avevo giù una pastina, una cosa del genere, capito? Se io sì, ti capisco, non è che non ti capisco. Se domani ti avvicini, lo guardiamo assieme, così almeno sei più tranquillo. Una volta che poi qua non ti crea più quel problema, sei tranquillo, al limite ti abbino anche le mie più 4, sali quello così te lo abbino, e così non lo dico il microfono a palmare. Lo so, però mi dà fastidio, Antonè. Cioè, non riesci a comprendermi io. Ma veramente non riesco a capire niente, sono incavolato nero, cioè sono andato a toccare, a attaccare il PL nel 747 e mi si suda un baracchino. Ma come cazzo è possibile? È strana la cosa, è veramente strana, non l'ho mai fatto. Vabbè, sai anche il coso. Il 747 la cacciamo al squicci mio, così lo vediamo subito. Metti tutto dentro una busta, ti metti quella di dello spi, così te lo controlliamo tutto. Perché io ho girato, ce l'ho là. Pace e bene. Ui, ciao. Ciao, fra. Dai, bianco per me, dai, che vado già a balle girate. E vado un attimino a mangiare. Via, va bene. Se vuoi ti dico la causa quando fa quel problema col PL. vuol dire che il negativo non sta andando all'apparato, dall'alimentatore, e quindi praticamente la massa si sta generando solo tramite l'antenna e quindi tramite il PL. Se deve essere staccata l'alimentazione negativa. No, qui si suda, io quando vado ad attaccare, l'amplificatore, come appoggio il PL nella massa mi si spegne. Allora è ancora più complicato, comunque è molto probabile che dipenda dall'alimentatore o se no dall'apparecchio, dalla parte che filtra la corrente praticamente. Ci sono dei condensatori particolari proprio all'ingresso di ogni presa di apparato. Non lo so che cosa è, domani te lo sto salendo su, Ali, e vediamo un po' che cosa è, perché a me questa cosa non mi piace. Intanto sali qui su quella brigliamo, sali anche alle 24, così ti metto le 24. Capito? Vedo sempre tranquillo. Mi salgo anche il lineare, perché qua me lo fa, qua come io vado a attaccare il lineare, mi saldo problemi. Ok, sali anche il lineare, così lo facciamo la prova, poi tanto già c'è lo squitch che già l'hai visto. E lo vediamo seguito. Capa. Faccio le lì così girate, faccio, cioè, come fa a attaccare il PL, tassi sul baracchino, ma cosa stiamo dicendo? Comprati un alimentatore serio che costa, ci sono da 4 soldi, 100, 120 euro e cioè, sono da 35, 50 watt, cioè 50 ampere. Ma non me lo faceva con l'altro, io l'altro apparecchio non mi faceva niente. Ma se di quelli switching non vanno bene per gli apparati radio, a parte che generano delle onde anomale dal punto di vista della radiofrequenza, per la circuitazione che hanno, tanto è vero che se guardi i veri alimentatori per radio di norma, quelli moderni, hanno tutti una manopolina che permette proprio di abbattere questi disturbi, queste cose, soprattutto in ricezione. Però in linea di massima non vanno molto bene, tanto è vero che vengono solo utilizzati per i LED o per altre applicazioni. Infatti io ne avevo uno che era da 30 e passa ampere, e lo stesso mi ha fatto impazzire per un disturbo che creava sulle telecamere, ho staccato quello, ce ne ho messo uno di computer che sono molto più filtrati e è tutto sparito, la giubilata e il Sergio Vampad, così com'era. Vabbè dai, adesso vado a mangiare, ci sentiamo dopo. E comunque se vuoi tagliare la testa al toro, Antù, prenditi una batteria di macchina un attimino, la stacchi da qualche posto, lo colleghi e vedi se lo fa, così c'hai tutte le risposte che vuoi subito. Ehi Antù, ciao Gianfranco. Sì, quelli piatti, questi alimentatori che vanno in voga adesso, 30 o 50 ampere, sono nativamente, c'è scritto, per alimentare strisce LED, è vero? Quelle del computer sono più cubici, diciamo, di forma. E quello che dicevi tu, la regolazione del noise offset, giusto? Qua c'è, per esempio, in questo Foxtel c'è. Sì, perché sta da un sacco di casotti, una cosa micidiale. Quindi combatte, però sempre, ogni giorno punta a capo, capito? Così. Sul fondo senti quei rumori che sentivi tu. L'F8. Dimmi Gianfranco, che rumori? Quelli che mi avevi detto tu, che stavi ascoltando, questi a te. Che sembra il lamento di un lupo. Sì, l'ho fatta sentire a un amico che non di radio non ne sa niente, ha detto cos'è questo suono sinistro? In quei tanti. Oggi c'era poi una propagazione folle, una densità di stazioni in 40 metri incredibile, ogni kilowatt una stazione. Ieri figurati a bassa potenza mi ha risposto, io non uso mai grosse potenze, mi ha risposto Petrasso in Grecia, che erano tutti in FM, c'era anche un traffico in FM da paura ieri. Ma in 27 o banda amatoriale? In 27, e certi segnali. Ah sì, ma io ieri c'ero, se c'ero dormivo, non me ne ricordo, non ci ho badato. E poi dipende se c'è ricezione da ascoltarle. Comunque qua di norma c'è una propagazione discreta. Ehi, ci dovrebbe essere anche il profeta in ascolto. Gianni, riprendi un po' tu, dai, così io qua riassetto tutta la balonda fatta. Ehi, vabbè, giusto. Giusto un attimo e poi vi lascio anch'io. Via, via. Buonasera Gianfranco. Ben entrato. E niente, dai. Purtroppo. Vabbè, io ci sono. Svariate, come si dice, ipotesi, ma che possa essere la connessione al microfono, il fatto che abbia tutta quella alternata e sporta presso. Escluse quelle due, possono essere 2-3 milioni di cause. La massa sugli apparati è molto importante, se non c'è genera disturbi al nastro, poi per di più, per semplificare le cose, ci attaccano pure il lineare e quindi da un disturbo piccolo nasce un caos totale. No, mi è venuto a pensare come se non ci fosse la connessione del polo negativo del microfono, capito? La prima che mi è venuta in mente, poi come dici tu ci possono essere altre cose in ballo. Sì, ma ad esempio l'alimentatore è facile perché si prende una batteria, gliela colleghi, ampere ne ha go, quindi non c'è scusa di ampere, anche una da 35 va benissimo, ce la metti un attimino, lo provi a trasmettere e vedi un po' come sta andando. Se va bene, allora si riprende l'alimentatore e metterlo sotto una toccarro, anzi sotto quell'affare che passa per l'asfalto, lo schiacciasassi. Marco, sta andando via interrogativo? No, sono qua che sto riassettando, che ho mangiato, bevuto qua, eccetera. Però non tarderò, direi. Oggi vorrei tentare di vedere un film dall'inizio. Alle 9 io devo essere già sparito da qua, già in poltrona, con la copertina sulle gambe, con la stufa, vecchio. Ho cambiato frizione, ho cambiato. Prova. 1, 2, 3, prova. Alternata, io sento alternata, non forse come prima, però c'è lo stesso. Per te, Roberto. Roberto c'è. Non posso, ma mi sono sbagliato io. chiedo tu, Marco, lo stesso. Sì, Anto, molto minore, molto ma molto minore. Prova un po', premi la portante muta. No, va e viene. Più forte e poi meno forte la fatta. Anto, tu cosa stai toccando? Perché vedo che va e viene l'alternata. Vado a vedere. Sempre. La roba di coglione. E quando cominciano così gli apparati al microfono, comunque io partirei dalla cosa più semplice, tipo le connessioni microfoniche, le saldature, vedere se c'è un falso contatto, una saldatura fredda, e poi andrei via via. No, sai perché Gianfra? L'alimentatore che ha, gli è sempre andato bene con gli altri baracchini, capito? Anche con lineare, non gli ha dato mai questi problemi. Ho capito, però dipende sempre dal tipo d'apparato anche che ci colleghi, perché come media frequenza, come quelle belle cose lì, poi succede di tutto di più, non sono tutti uguali gli schemi circuitali, capito? Magari ci sono baracchini che sono più filtrati e riescono a lavorare meglio, però fatto sta che, ripeto, per sapere esattamente se dipende dall'alimentatore basta una semplice batteria. Esatto, quella è una prova, Gianfranco, che avrei voluto fare, breve, per vedere se qualche po' di corrente elettrico passa anche dall'alimentazione qua. Non credo, però un giorno provo, a parte che io devo comprare una batteria per antifurti, no? Quelle da 9 ampere più il caricabatterie. La voglio per usi futuri, compreso il baracchino, blackout, che ne so, calamità naturali, tocchiamo anche le balle. ne compri una da 35, 40 che è meglio. Costano poco, saranno due, ho visto, non ricordo, 35 euro credo, proprio di macchina, di quelle un po' piccole. La metti, la tieni sempre carica, perché sono sui dominanti. E beh, tranquillo, io ce l'ho, è fuori, all'aperto, credo che sia da 50 stampe. Sai cos'era? Volevo che stesse in uno zaino. Sì, tipo 7 ampere, 9 ampere, quelli per gli antifurti. Da usare magari uso ciclico, no? Cioè, uso a scaricarla, scaricarla e ricaricarla, capito? Sì, perché quando devo fare prove di antenne su un altro terrazzo di proprietà, io importo alimentazione, baracchino, rosmetro, l'antenna, poi il supporto per tenere l'antenna. Volevo chiedere a Antonio se ha già mangiato o se sta ancora trafficando. Forse sta trafficando. Allora, Gianni, se ci sei ancora riprendi, dai, poi Pomponio. Ehi, sì, dai, entro per salutarvi, dai. Mi congelo. Dai, ci sentiamo alla prossima. Saluto nei circolari a tutti, ragazzi, dai. E niente, alle prossime, come si dice. Ok, dai, buona serata e a un Fiedersen. Ciao, ciao. Ehi, già, vai, sentiamo. Io ci sono un po' entrato mezzo mangiando, così, cioè, non sono entrato niente. Ci sentiamo, dai, buona cena, quando la farai, se la devi fare. Avanti Pomponio per i saluti. Sandrino! Sandri! Figlia! Sandrino! Parise! Dove sei? Sandrino! Oh! Sandrino! Oh, io. Antonello, ci sei ancora? Antonello è sceso al fumo. Via. Ora di cena di chi? Vediamo se c'è una persona. Attenzione Antonio Grodde, sei all'ascolto? Siamo sempre in buco, già mi chiusi. Ciao già. Ciao, io ero sotto la doccia, non potevo entrare. Stavo facendo un po' di pulizia a casa e poi sono andato a farmi la doccia, quindi vi ho ascoltato. Ma sei nudo? No, adesso ho vestito, ma c'è ancora il capelli bagnati. No, se no ti avrei fatto il gioco della calzetta, capito? No, io poco male di me, perché non so di fare la sponda lì. Oioia. Quindi Antonello niente, Antonello si è allontanato. Gianfranco, sì, tu. Beh, c'è anche Gianni adesso. Ciao all'altro Gianni, buona cena. E ciao Gianni. Per il dopo dolce e niente, dai, c'è Marco, c'è ancora esattamente 38 minuti. No, sono entrato così, mi asciugo i capelli, 5 minuti, ti vai a portare qua e poi vado. No, volevo dire Marco che c'ha 38 minuti perché dopo dice che deve scappare di corsa. Ma io di Filippi devi andare, Marco. Proprio la di Filippi, no, io tutta quella roba trash non la seguo, no, né Grandi Fratelli, né Grandi Sorelle, né Isole di Bavosi, né Temptation Island, né Uomini e Donne, quelle se le guarda mamma, quelle cose lì. E quindi te li assorbi anche tu? No, ma ci abbiamo ognuno il televisore in camera, ci mancherebbe. Anzi, anche qualcosa di più, una volta avevamo un televisore in ogni camera. Allora, uno in camera da letto, uno in camera di mamma, cioè uno da me, uno da lei, uno in camera del computer, uno qua nel salone e uno in cucina. Roba piccola però, non impegnativa. È un modo di socializzare quello. Uno da parte e uno dall'altro. Guarda, l'avremmo messo anche davanti al gabinetto per non perderci qualche telefilm, qualcosa, mentre va in bagno. Saremmo stati capaci, poi ci siamo molto ridimensionati, eliminato in camera il computer, eliminato qua, c'era un vecchio Seleco tubo catodico che è durato 28 anni e poi l'abbiamo buttato che funzionava, in cucina lo stesso ho fatto fuori. vabbè, quello è proprio cattolico, anche io l'ho buttato che funzionavano, adesso c'è tutti quelli a cosa, a LED. Però non so se quello che ho io, anche se c'è altri D grandi come dimensioni, eccetera, c'ha internet, però non so se bisogna mettere il decoder. Dipende di che anno è. Quando l'hai preso tu? Sarà 5 anni fa. Ho paura di no, poi chi lo sa, Gianfra. Se non ricordo male dal 2017 è obbligatorio vendere TV già certificati per il nuovo stand. Io ho pagato 1000 euro con il televisore, non ho anche pagato una lira. È bella, grande, fa tutto, tu vuoi un film, vai su internet dal televisore direttamente, ti scegli il film che vuoi e te lo vedi. Cos'è, Smart TV anche quello? Se non c'è quello adesso non fai niente. Io c'ho con lui lo stesso. Ciao Gianfra, buonasera a tutti, dai 5 minuti e poi vado a cenare. E anche io devo portare giù il cane, dai, mi sta facendo la coppia qua. Copriti già, copriti che c'è un freddo da cagarsi, anche i guanti mi ho messo. È bello che mi ho fatto la luce, c'è ancora i capelli bagnati. E allora non uscire, mettiti una cuffia, mettiti qualcosa, mica ti grebba, c'è un freddo allucinante. Sì, deve essere quella perturbazione dalla Spagna, la Spagna è tutta bianca di neve. Se faccio un vento freddo invece tramontana, maestrale, cosa ne so, un vento freddo da cagarsi sotto. Ma stanotte il vento ne ha fatto? Sì, anche io oggi nuda. Alle 5 di mattina ho fatto un abolotto, il vento che non vi dico, io ero sveglio. Sì, lo sentivo anche io, sentivo a fischiare più. No, io non sento più niente, mi ho messo doppi fissi, se ho il culo. Non sento più niente, ho messo tutti i doppi fissi, i PVC, nella camera da letto e in tutte le finestre, tranne la porta finestra del salone del poggiolo, là, quella bassa la poggibile, non mi frega niente. Ma qua lo stesso, sala radio, tutto, è venuto da una tossanna. Mi ha incultato una vacca di nama, non me ne ha fatto nulla almeno qua. Non si poteva stare con questi avvolgibili tutte le notti, boom boom boom boom boom boom. Oh. Io c'ho una cosa, l'ho comprata una casa così, è doppio vetro, c'ha vetro camera, doppio vetro di quello grosso. Diciamo che se ti si fa sciarichi si rivede, paga un bel di là. Non c'entra niente, dopo i vetri ce li ho anche io, perché oramai i vetri normali si usano. Sto parlando degli avvolgibili, quando abbassi gli avvolgibili il vento le muove, le sposta, e invece adesso ci sono gli infissi in PVC, con le doppie finestre in PVC esterne, dopo l'avvolgibile c'è il PVC, c'ho le finestre esterne, con le zanzariere, tutto completo, in tutte le finestre, tranne la porta finestra, quindi sono una, due, tre, 4 quella del bagno, 5 quella del salone. Capito? Tutto doppi fissi, no, doppi vetri, doppi vetri ce li ho da quando sono venuto qua, doppi vetri ci sono per forza, cosa usi? Vetri normali. Non si usano più ormai qui, a meno che non metti un vetro grosso, ma se no tutti doppi vetri. No, no. Infissi in PVC, non alluminio, l'alluminio è umido, PVC. Costa di più, però almeno è eterno. Vai Gianfra. Io invece ho quelli conventuali che si chiudono, fatti di legno, da cui passano tanti spifferi, quindi è solo quelli, senza neanche non c'è neanche il vetro, tipo il nome della rosa. Il vento sembrerebbe lì, cioè da sud-ovest qua. Che cazzo, ma così freddo, No, quelli c'erano in campagna, stai dicendo gli sportelloni in legno, quelli c'erano in campagna, non so, le finestre però, e poi chiudi gli sportelloni. No, questo Donato è un amico di mio genero, mi ha fatto un buon prezzo, già mi è costato, quasi 4 sono partiti, 4.000 euro, vabbè, comunque ci voleva, c'era Bignancur, vai Marco. Guardi, guarda che io sto andando, vi saluto tutti, alle prossimine, ciao. Già alle prossime, vai Marco. Ciao Gianni, dai, buona serata, buona cena, quando lo farai, se lo devi fare. E ci sentiamo quando capita, ok? Vai Gianfra. Sì, ciao Gianni, buona cena e buon asciugaggio. A te Claudio. Ehi, ciao, copriti bene, perché c'è freddo. Guardi Antonio, come mai non riesci a risolvere questo problema? Ma anche secondo me è un problema di massa di alimentatore. Sembra che se gli si spegne la radio così, quello lo fa il negativo. Come punti la massa dell'antenna ti si spegne, va in corto. Quindi, vabbè. No, potrebbero essere rientri RF. Glielo fa lineare attaccato, come va a trasmettere, gli si spegne, non lineare, il baracchino, come è possibile? Non è un rientro RF, Marco, così, i rientri RF sono diversi, lì è proprio una questione di qualcosa in corto, capito, non so, ma deve controllare bene, perché così non può modulare, no? Arrivaggio un motore sotto. Ormai glielo controllo io, mi porta la roba qua così glielo controllo io. E almeno è più tranquillo. C'è qualcosa di là, che non va, non si capisce. Da va, riporta l'apparecchio qua, al lineare, così lo collego allo switch che ho io e ricollego anche il mio più 4, dato che ci sono. Così se dovesse essere l'alternata del microfono, quel microfono se la prende in culo. Capito? Adesso vado a risolviamo quel problema. L'apparecchio non c'ha niente in pratica. Io ci avevo collegato al lineare, già te sei accorto. Se no aveva fatto anche a me, nel lineare che ho dove vedi si era spento il baracchino in automatico. Adesso domani lo controlliamo. No, ma me l'hai fatto sentire da casa tua, esce benissimo, capito? Fatti portare anche l'alimentatore, tutto, alimentatore, baracchino e lineare, lo attacchi lì da te e guardi se lo fa lì da te e risolvete il problema. È inutile che deve portare tutto quello che sta usando lì e poi lo attaccate, capito? E vedi un po'. Controlla bene le cavità dell'alimentatore, controlla bene il microfono, perché guarda, io li ho comprati nuovi. Questo è nuovo, l'MB+5, capito? Che ne ho comprato un usato, MB+5, gli hanno fatto il ponte, gli hanno cambiato la capsula, gli hanno fatto un sacco di modifiche, fischia, fa rumori, è un casino. Guarda, ho comprato nuovo, senza cambiare capsula, senza niente, è una cazzata fare queste cose, capito? Modificare, contromodificare, cambiare la capsula per fare che cosa? Per uscire come? Non sto facendo bene questo, ed è originale. E così l'MB+4, sull'Inuit escono bene tutte e due e non mi creano problemi. Gli altri due microfoni, sia sull'Inuit che sul Midland, fischiano, fanno rumori, alternata, casini. Li ho presi, li ho messi dentro l'armadio, sono nuovi, li ho comprati usati e sono nuovi, capito? Usati 40 euro, l'altro 50 euro, se mi vado a comprarli nuovi, uno 60 e uno 70, quindi senza essere cagato a nessuno. Vai Gianfra. Infatti, io stavo pensando una cosa, quelli sono questi qua di cui stiamo parlando, sono baracchini praticamente. Se lo dai uno di quelli che ti ha fatto vedere, ci escono di testa, solo per accordarlo. Non esiste, cioè se questi microfoni sono stati progettati, per funzionare. Poi è chiaro, uno c'è metallico, l'altro è cupo, l'altro è qui, l'altro è là. Se non c'hai voce per portare i microfoni, cambiate le corde vocali, già vi dico. Io non ho toccato niente qua, manco la connessione, perché quelli che vende Fusaro sono tutti connessioni Midland, quindi. Perciò li ho attaccati e funzionano perfettamente senza toccare niente, originale. Gli altri due è un troiaio, non le toglievo piedi, smontando, facendo, controllando, capito? Tutti modificati, con punti, fili dentro, casini, e non ti metti a fare. L'avevo preso e li ho messi dentro l'armadio, me li ho comprati nuovi, se ho bisogno di culo. Vai Marco. Scusami cra, ma ti pare possibile che uno attacca RBL? Solo attaccando RBL, Aro baracchino, sì, cioè, aro lineare, sì, su da aro baracchino, quanto è possibile questa cosa? C'è un corto, Antò, c'è qualcosa che non sta andando bene. Devi portare da Antonello domani il baracchino, il lineare e l'alimentatore. E te la ti attacca lui, ti controlla tutto col tester e vedrai che il problema lo risolvi, Antò. Ma non ti devi cazzare. Purtroppo le radio sono fatte così, l'elettronica è questa. Un giorno funziona bene e un giorno funziona male. Io mi ricordo che al mio 440 l'ho spento la sera, così. Ciao a tutti, dai, chiudo, ci sentiamo domani. La mattina vado ad accendere e non si invia più, cioè cosa ha giovato? Non ha giovato nulla. Cappa, ma che cosa è strano, però prova a fare una cosa, prova a attaccare un alimentatore. Prova, devi fare le prove, se no porta tutto l'Antonello, la radio non c'è niente perché usciva benissimo, è un problema lì da te, capito? Può essere tante cose e niente, bisogna controllare tutto. Dai, io vi saluto e vado a cenare che sono 9:20. Ciao Gianfranco, ciao Antonio, ciao Marco e ciao eventuali ascoltatori. Se ci siete a dopo, altrimenti a domani. Ciao. Ciao Claudio, buona serata. Le prossime, riprendi Marco. Neia. Ciao Claudio, dai, buona serata con tutto. E ci sentiamo. Chi c'è rimasto qua? Antonello c'è ancora? Noddu. E quindi già lo sta usando quel giocattolo, Marco? Sì, per la fonia, più che altro. No, perché io sono in una posizione tale qua, con questo portatelefono a sinistra, il tavolino davanti, che per portare l'audio devo mettere questo cavetto a mezz'aria, no? Insomma, un giorno per poco, un tracino l'uno e l'altro a terra. Devo circunnavigare il tavolino, eccetera. Insomma, se avessi una scrivania un po' organizzata, magari verrebbe meglio, molto molto meglio. Sì, me ne sono accorto per caso, ho acceso il ricevitore SDF, no? E ho visto tutta la banda piena di segnali, 40 metri. Allora ho attaccato quello lì, con l'antenna 5 ottavi, e dei bei segnaloni. C'erano contest su tutte le... contest, praticamente il 100% erano contest, il 100% delle comunicazioni in fonia, e bene o male riuscivo a sentire quasi tutte le stazioni, nonostante sia praticamente un pezzo di chi, cioè uno stilo, elettricamente 7 metri, elettricamente. Guardate dove si è sparito tutto. No, Antò. Ma allora cosa cazzo è? È lo baracchino. No, cazzo, impossibile, va. Vola. No, ma che cosa c'è apparecchio? Impossibile. Ma che baracchino è? 87. Alan. Oh. Strano. È col suo micro. Originale. Capo, prova a passare tutti i batti adesso, guarda a vedere. Anche peggio. Vai. Terrificante, Antò, quest'ultimo passaggio è terrificante. Terrificante, è una cosa fortissima. Ma è strano perché quando lo usava Antonello da casa io lo sentivo bene, discretamente, non aveva quella cosa lì. Vabbè, già te lo guarda lui domani, dai, adesso non ti incazzare, se ci incavoliamo per questi baracchini, insomma, Maria. Adesso domani spero che mi risolva il problema, perché mi sto incazzando un bel. Ohia. Ma che cos'è? Comprato, regalato, prestato? Preso, cioè preso, però non va bene, a me non va bene. Vabbè, preso sarà comprato. Gli apparecchi vanno regalati, non bisogna venderli. Vero Gianfra, regala qualcuno di tuoi, di quelli belli, tipo Barrett. Ohia. Ogni tanto mi guardo quei cataloghi là, esco, oppure radio, no, come si chiama quell'altro sito? E ho visto che hanno prezzi belli pompati, quelli là. Figurati quanto costavano da nuovi. Beh, non vorrei farti, top di gamma, credo 35.000 euro. Cacchio. Radio Surplus, infatti si chiama, uno è catalogo ESCO, l'altro è Radio Surplus. C'erano delle cose carine ma costose, insomma, e poi vanno sapute usare anche. Tutta roba un po' delicata, anche magari che i radioamatori li possono anche trattare, io non dovrei, non potrei. No, ma se sono ricevitori che problema c'è? E che costano cari, quelli buoni anche di seconda mano costano, mantengono un prezzo alto. E comunque non c'è un mercato, perché quelle cifre solo il governo se le può permettere, capito? Sono cose solo governative, ma infatti, siccome tutti dicono comunque cosa vedono il professionale oramai si usa un altro termine che è più attinente, sono ricevitori allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte significa che difficilmente dopo c'è qualcosa in più. Via. Beh, l'altro giorno cercando su Google immagini c'era in dettaglio la foto interna ed esterna del furgoncino del Ministero dello Sviluppo Economico, no? Con copalo pneumatico, tutto in particolare, c'erano due magnifici Rod Schwartz ricevitori. Dice, c'è un capitale, già solo con quei due pezzi sono un capitale, forse valgono più del furgone stesso, nudo e crudo. È molto molto probabile. Quelli lì sono, di norma sono due, perché sono ricevitori di monitoring, quindi mi servono praticamente a vedere tutto lo spettro con visualizzazione, ovviamente. Quindi appena uno prende la portante vede subito, poi c'è la possibilità anche di impostare lo spostamento immediato su quella frequenza. Quindi tu premi e lui è già sul canale. Sono micidiali. Infatti stavo leggendo le specifiche di un pattugliatore, e anche loro hanno quelli, no? Sia per la ricerca dei segnali, sia per il controllo di tutta la gamma di frequenze. E questa era un'imbarcazione della Guardia di Finanza. Tipo, per intenderci, quello di Sfalghiero. Premo un pulsante, pip-poc, e c'entrano subito la frequenza. E ne hanno due a bordo, di cui rimangono sempre accesi, ovviamente. E sono degli apparati eccezionali, veramente. Solo che per noi sono... Li possiamo solo sognare. Veglia. Ti dirò, io ero convinto che questi furgoni, no, dell'ecoposto, come si chiama adesso, insomma, fossero tutto un groviglio di cavi, un casino di roba, cavi. Invece era di una pulizia estrema. C'erano questi due ricevitori e poi a sinistra un computer portatile. Ah, di una pulizia stratosferica. Io che te l'ho detto, credo di vedere groviglio di cavi, selettori, che ne so io. Ma ci sono in realtà, ci sono, ma tu non li vedi. Tu pensa che già buttando l'occhio su quello che ho io, vedi almeno, calcolo veloce, c'è almeno una ventina di TL messati su qualcosa. E poi altre, ovviamente ci sono i PL, ci sono anche i cavi, che sono molto difficili da gestire. Di lì è più facile, perché essendo un furgone ci metti la sua paretina metallica, perché sono di norma li mettono in rack con gli affari, e dietro non vedi niente, ma se apri dietro probabilmente ti spaventi. Cioè, ci sono i cavi ovviamente, però tutto nascosto dalla vista, tutto ordinato, eccetera. E beh, ovvio, quello è... Mi ricordo che nel 92 io sono venuto qua, no? Era un periodo che il furgoncino dell'escoposta, anziché parcheggiare tipo alle poste centrali, era parcheggiato sempre alle poste di Via Luna e Sole, no? È bello che otticamente, proprio da lì dove parcheggiavano, si vedeva otticamente la mia antenna. Quindi io vivevo nel terrore all'epoca, avevo paura anche di entrare, perché sai, meno male, qualche cosina sempre fuori norma, qualche microfonino amplificato magari ce l'hai, qualche canale di troppo, insomma, ce l'avevo davanti. Beh, c'erano quelli davanti perché erano lì, c'erano l'ufficio. Ehi, ehi, Nico, ma lì, sai, è troppo vicino, ma lì troppo vicini è, fa venire l'ansia, capito? E poi era molto bello anche quel video dei furgonauti che però lavoravano per un istituto di astronomia o roba del genere, quello che c'è su YouTube, molto carino, che avevano beccato un segnalino di non so che aggeggino era, che giocattolino era, disturbava non so quante frequenze, una cosa folle. Bello, bello quel filmato. L'ho visto anch'io, ti dico cos'era. Alla fine di tanti giri era un banalissimo amplificatore d'antenna che andava in auto-oscillazione.